quasi sempre mi dimentichi. E credi essere ciò che il mondo ti ha insegnato, o quello che gli altri vedono di te, o quello che gli lasci vedere. È un errore. Dimenticarmi è un errore. Ti opponi e non lasci che io ti completi. Come se un fiore crescesse nel tuo giardino e ti ostinati a coprirlo. A coprirlo. A coprirlo. Con spazzatura. Con spazzatura. Con spazzatura. Con spazzatura. È un errore. Dimenticarmi è un errore. È un errore dimenticarmi. Una fiore nel giardino. Non cresce perché non lasci la fiore crescere. Lasciatemi, lasciatemi.